tantissime, sai cosa vuol dire tantissime? Io già lo so, se addirittura me le costruivo le antenne io non lo so. Però purtroppo a me mi dispiace, lo sai cosa giù, per quel vecchietto mi dispiace, la verità è, mi dispiace per quel vecchietto perché io mi sono anche offerto di fargli l'antenna a mie spese, magari insomma non ha di na tra me e me a giudizio. E praticamente gli ho detto che le facevo a mie spese le antenne. Ma era il figlio. Non ha voluto. Messo. Hai capito? Non ha voluto. Perché è il figlio che comanda. Il figlio che comanda. Perché e comandi allora. Quando muore, l'eredità tocca a lui. E comandano i figli, non il padre. Questo non è ho batteria concetto. Babbo, non fa niente. Di quelle. Vabbè, comunque quella ti dura molto che sono nuove. Lo so, purtroppo è così Natale, certo che dispiace perché nessuno va a fare certe cose per danneggiare un altro, ci mancherebbe altro, tantomeno tu che ti conosco bene, che non sei certo l'individuo che fai questi dispetti nella maniera più assoluta, però anche lui, vecchietto o no, si deve mettere in testa che a questo punto i diritti, dove iniziano i suoi diritti, o meglio dove finiscono i suoi diritti, iniziano anche i tuoi, per cui lui si deve mettere in testa, o si lascia aiutare come tu gli avevi proposto, o perlomeno ci pensi da sé, senza stare lì a rompere le scatole e continuamente a disturbare la gente che non lo cerca. Ecco com'è il discorso, la situazione è quella, anziano o no, vecchio o no, le regole valgono sempre per tutti, per cui lui si deve adeguare ai tempi e ai momenti, ai casi, alle situazioni vigenti, per cui non riesco a capire come mai quest'uomo, per quanto anziano possa essere, che non riesco a capire queste cose, allora è fuori il gabbo. Ma cosa vuoi ti dichi? Addirittura per un'altra cosa, che io disturbo la figlia che è attaccata a quell'antenna di quell'uomo vecchio, è logico che disturbo pure a lei, ed è venuta a fare lo scandalo a me e a mia moglie. Gli ho detto, se torna qui, la sto denunciando per stalking, l'ha giudito, e non v'è più accudito nessuno. Capito? Io a quell'uomo gliel'avrei fatta nuova l'antenna, però ci sono attaccati pure i figli, che sono nell'altro vicolo. Cioè, fammi capire, alla stessa antenna ci sono altre due utenze, così, oltre alla sua c'è anche un'altra utenza, del figlio e della figlia. E allora? E allora, maggior ragione per essere, per dovermi fare l'impianto di antenna, iglia, lugriglia, ma nemmeno per sogno. Già è scadente il tipo di impianto di antenna che aveva già da prima. Se poi tu mi ci metti anche altre utenze, non è così che funzionano. No, assolutamente. O si mettono antenne individualmente, tutti e tre, una per ognuno, o perlomeno si creano un tipo di antenna centralizzata per poi avere la distribuzione normale come deve essere. E capita, e la garigantata, allora non è solo il vecchietto, che è capo giusto, capo di morco, il figlio e la figlia, tutti e due compresi, e allora è tradizione di famiglia quella o Natale. Li sto lasciando cantare, però io a una certa ora smetto di parlare, perché non posso andare a rompere le scatole a quest'uomo poverino qua. La che m'ha pigli, a una certa ora io smetto di parlare proprio per non disturbare a lui, perché so che lo disturbo. Lo credo, certo, quando tu pensi questo, già mi stai dicendo che in quella zona il segnale è un po' scadente, o meglio basso, a questo punto, poi questo suo segnale è basso, che viene distribuito per tre utenze, allora tu sai benissimo che se tu dovessi fare un'antenna da una camera all'altra, sempre allungando il filo da una presa a presa, c'è la distorsione del capo stesso, perché più capo c'è e più distorsore c'è. Se non c'è quel tanto di B, non c'è niente da fare, non vedrai mai niente, non vedrai mai niente, o perlomeno se riesci a vedere vedi in maniera molto ma molto sporca. È allegria, perché più allacci ci sono, più allacci ci sono in quella stessa antenna, e peggio sarà. E allora lì si deve pulire un gabbo a punto, perché non sono persone che hanno ancora capito niente della vita. E poi sicuramente non pagheranno il canone, niente, capito, là, e sono attaccati all'antenna del suocero. Oh, cosa ti volevo dire? Poi la casa è un piano solo, mi, è bassa bassa, non è una palazzina alta come la mia. Quindi l'antenna risulta anche molto in basso, oltre che debole il segnale. Avranno l'amplificatore a manetta pure. C'è con l'omologato, Castellè, in fondo al vicolo, mi. Questo qui è lontano pure, l'antenna mia risulta molto molto in alto e la sua è che è in basso. Come faccio a disturbarla non lo so, avranno l'amplificatore di quelli cinesi e a manetta pure per prendere il segnale. È probabile, magari mandi l'amplificatore che una volta faceva Fusaro, quello antico di una volta, capita, lo so io, che faceva lo schifo qui, quegli amplificatori lì, gli aerogrillo. Oh, ci vuole intanto, se è necessario un amplificatore, bisogna mettere un amplificatore della Flaccarro, intanto, no? Che un amplificatore serio, che sia a bassissimo rumore di un ripple, cosa vuol dire? Che deve avere al massimo un 0,2 di rumorosità, perché se incomincia a avere più rumore già il segnale diventa scarso. Ci sono tante di quelle cose, ripeto, in un impianto, ripeto, solo uno che ha fatto di quel lavoro lo sa e lo capisce. È inutile poi fare questioni e balle varie, come tante volte sentiamo anche in frequenza, che aprono la bocca e lasciano andare lo spirito, come si diceva una volta. Tu devi parlare con cognizione di causa, io intendo a certi discorsi che si sono fatti in frequenza eccetera, solo per il fatto che vuoi apparire. No, non è quello il discorso, non devi farti apparire proprio per nessun motivo. O le sai le cose o non le sai, se non le sai ascolta se vuoi imparare, e se no cagliati muggio, non interferire chi ne sa più di te, è quello cosa intendo, Natali. E infatti, come l'adattatore di impedenza e tutte queste, signori già, è gaglia di mutu. Castellè, l'antenna V e U, perché glielo mettevo il coso, il come cavolo si chiama? Glielo mettevo perché per adattare l'impedenza, da 300 ohm a 50 lo portavo. Mi pare ovvio il discorso, no? Eh beh certo, uno parla, ripeto, solo per dare aria alla bocca, però non è così che si fa. Vabbè, noi ascoltiamo i discorsi di tutti, per carità, ognuno ha il diritto di dire la sua, questo non ci piove, lo sappiamo benissimo, però se poi non si è all'altezza non contraddire, a parte il fatto che è maleducazione contraddire un'altra persona, nessuno ti sta obbligando a credere quello che ti dico, anche se magari ti dico la verità, non sei obbligato a crederci, però non sei nemmeno educato se mi contraddici una cosa che io ti sto dicendo, perché tu magari non la sai, premesso che possa anche sbagliare io, sia ben chiaro, questo è ovvio, perché nella vita sbagliamo tutti, però se permetti, i discorsi si affrontano in maniera civile e soprattutto riflettendo, ma se poi uno apre la bocca e lascia andare certe stronzate, come si sono sentite diverse volte e come continuiamo a sentire, e allora non c'è niente da fare, non serve a niente avere il baracchino per distendersi nella maniera più assoluta, serve solo a far razzi e buh. Prego. Mica c'è un break giù, fallo venire avanti. Sì, ho sentito, avanti. Ecco, ciao Giulio, ciao Talino, ben ascoltato. Giulio, è un rebus a Sassari, è un rebus. Tutti che rene, ma con un'antenna, tutti che rene, non vende uno che lo guerra. Avanti Giulio. Ok, ciao Fra. Ma è così, lo sai che è così, no, il discorso è questo, uno perché magari sa accendere il potenziometro dell'apparecchio subito diventa bravo, no? senza pensare che c'è qualcuno magari più bravo e molto più intelligente in materia, non dico in generale, ma è nella materia che si discute, e purtroppo è così, cosa ci vuoi fare? Ripeto, il rispetto per le persone è molto ma molto scarso, per cui lasciamo di fare, che è meglio. Avanti la tariffa, Franco. Ciao Fra, buongiorno. E stavamo chiacchierando di queste cose, Fra. Io le ho sempre fatte queste cose qui e quindi ne so, perlomeno, qualcosa che mi hanno insegnato la so. E molta gente stava rompendo le scatole a qualcuno, diciamo così, nel senso che lo stava contraddicendo, che non è vero niente, questo e quell'altro. Oh, yeah. Ma io penso una cosa, si lascia fare il mestiere a chi lo sa fare, e ognuno faccia di più, che non... vabbè. Sono discorsi, parole buttate al vento solo, è fatica inutile. Avanti, Giulio. Ok, fra, beh certo, quello sì. Sì, però uno è dire no, io la penso in un altro modo, e l'altro invece contraddire apertamente in maniera senza nemmeno dirlo chiaramente, stai dicendo delle bugie. No, no, non è così che funziona la vita, no, nella maniera più assoluta. Dice no, non sono contrario perché ho un altro parere, vabbè, e finisce così, nessuno ti proibisce di pensare quello che vuoi, però che poi a un certo momento contraddici e parli in modo come per dire sei fauraggio, non va bene, no, va bene nella maniera più assoluta. Fra pure ci sono anche quelli, insomma. E vabbè, ma uno se non se ne intende di roba, non deve neanche entrarci al discorso. E io, roba del genere, di elettronica, quello che mi dico, ogni gioco, non vedo, e non prendo neanche il discorso, perché è una cosa che non saprei neanche rispondere in certe cose. Però c'è gente che sono tutti esperti. E vabbè, vuol dire che leggono più di me e si informano. Probabilmente è quello. Avanti Natali. Vai Natali. A Franco lo sto ascoltando basso di radio, forse anche di segnale. Sì, mi stai ascoltando basso perché sto usando un baracchino, non ho attaccato l'altro perché ho un leggero problema di tensione, ciò della mia corrente di casa, e sto aspettando che mi ho ordinato uno stabilizzatore di tensione, tanto per tenermi la tensione regolata. Come mai c'è bassa tensione? Perché a casa tua fa? Ma l'altro giorno si è aumentata di brutto, si è aumentata, e mi è partito anche l'alimentatore da 40 ampere. E adesso ce l'ho quasi giusta, e l'hanno regolata l'Enel, però io non attacco quello là finché che non mi arriva lo stabilizzatore, in modo che quello lì anche i colpi non li fa niente più. Ho capito, Fra, capita, e questo comincia ad essere un problema, perché se si aumenta così di punto in bianco la tensione, già l'hanno aumentata di nuova iniziativa, perché prima doveva essere 220 e adesso è quasi sempre a 230, e già quello incomincia a essere un danno, se vogliamo, per tutte le apparecchiature, perché soprattutto chi ha apparecchiature vecchie di tanto tempo, che erano state costruite per reggere una certa tensione, e invece insomma le porti proprio le mandi la tensione di sugli a massima, allora incomincia a essere un problema, incomincia a essere un problema. Tu per quello fai così, mettiti un voltometro, mettiti in evidenza collegato e così tieni sempre costantemente la tensione sott'occhio o fra, così dovresti fare. E vabbè, dai, avanti Natali. In effetti ci vorrebbe un voltmetro collegato, fisso, in modo che lui veda la tensione che esce sempre, in modo che lui sappia se è 220, 230, dovrebbe essere sui 230 la danno, da, mi sa. Normale dovrebbe essere sui 220, però si comincia a cavadare e l'onfi. Natali, sì, 220 dovrebbe essere. No, ma io li ho chiamati e venute, mi hanno controllato la situazione, ed era il contattore che partiva la corretta. Me l'hanno abbassato. Me l'hanno abbassato ed è giusto 230. Però io, tanto per non sapere né leggere né scrivere, mi ho ordinato uno stabilizzatore di tensione. Adesso, la radio grande l'attacco, quando c'è lo stabilizzatore di tensione, come mi arriva, dovrebbe arrivare entro questi giorni, questa settimana, come mi arriva l'aggancio a quello lì ti dà la corrente a 220, sempre a 220 stabilizzato. Infatti non ti vidà fra, ti può far partire la radio, ti fa danno. Radio. La tensione se la livella, certo, però quello stabilizzatore che tu hai ordinato, quanto resiste di entrata? Se quello è fatto per i 220, 230 lo stesso, e la tensione aumenta, più brucia lo stabilizzatore, non esce di più non esce, perché dunque le radio rimarranno sempre salve. Però il pericolo lo può correre lo stabilizzatore stesso, fra, capisco cosa intendo dire. No, Giulio, non lo brucia perché 2000 watt. No, non c'entra niente il vantaggio, sto parlando di tensione. Uno è la potenza, che sarebbero i watt. Sto parlando di tensione. Se quello era diventato a 230 e ti arriva per dire che sono io a 250, ti brucia lo stabilizzatore di tensione. In uscita saranno sempre i 220, quelli che tu fai uscire, però in entrata il discorso non è che cambia molto. Ti serve le radio te ne salvi, certo, però in entrata lo stabilizzatore soffre, perché se è fatto per i 230 e magari se ne arriva a 250, a 260, ecco che il problema ce l'ha lo stabilizzatore, ecco cosa intendo. Non è così secondo te, Natali? Infatti, chi subito brucia, io penso. Se gli danno botte così forti, brucia lo stabilizzatore. Comunque si può indennizzare lui se gli ha bruciato apparecchiature. Oh Giulio, no, 2000 più un... Adesso, 2000, poi l'altro tensione è 1200. Giulio, ci sei? Giulio, ti sta chiamando Franco. Ah, voglio una carta la corrente. Si è dovuto spostare veloce. Ho le mancata la corrente. La Sardino mi sei sudato tutto all'improvviso in oggi. Chiappa. capita. Però io spengo, sa che quando torni poi gatta mi poteva danno pure a me, compreso, perché era da loro che mancata a me, boom, di colpo. Sì, senz'altro manca da loro, sì. Vabbè, pazienza. Aspetta, un peccato quell'alimentatore 40 ampere, dimmi tu, come te chi sui va più io? Ed era di quelli, non era switching, no, era 40 ampere di quelli col trasformatore poco bisava. Cappa, no, il mio era switch, adesso ne ho preso uno a trasformatore. E anche il mio era trasformatore, fra, quello che avevo io era da 40 ampere, l'avevo anche modificato perché lui dichiarava 40 ampere, però non li dava, capito? Non dava i 40 ampere. Quello che avevo io da, quando l'avevo modificato, dava proprio 40 ampere, se no si busava con questa roba che avevo io. Lo vedi, è uno stabilizzatore di corrente, di tensione a corrente 2000 watt, 1200 volt, continuo. Sì, già va bene, già. L'importante è però che non gli arrivi in botta forte, mi, perché molte volte quando attaccano la corrente loro, la botta viene proprio lì, mi. E arriva di più la tensione, invece di arrivare 220 arrivi più forti. E chi sono un problema? Tu se vedi che ti manca la tensione, no? Che ti manca la luce a casa, spegni tutto, le apparecchiature, poi quando torna le accendi dopo. E io dimmo a chi mi ha fatto danno una busta pure a me, la volta di tensione così. Mi ha bruciato roba e quindi è un macello. Molte volte avviene lì quando loro riattaccano, magari il trasformatore non è come ti deve a sé e da zero a volta a voci. No, c'ha, per le botte forti c'ha un dispositivo che si spegne, c'ha la protezione, no? E già lo soffra, già lo so, in campagna mancava spesso, cazzo, in campagna me lo faceva il danno. E allora ho imparato la voce, come mi manca la roba, la luce, tac, spengo tutte le robe, così quando torna sono spenti gli apparecchi. Cazzo. E sai cos'è? Se succede solo a te una cosa, no, a casa tua e nelle vicinanze non succede altro danno, non è successo niente, no, succede solo a te. Tu vai, protesti, ma non ti fanno niente, perché dicono no, è un problema suo, perché dice non è successo altro a nessuno, hai capito? E non te ne pagano. Ah, maledetti, cazzo. Così è l'onfio. No, da noi tutta la gabbura si era passata, la volta ha bruciato roba a tutti. E per quello, capito che te lo sto dicendo. Ah, se succede solo a te non ti mi pagano, bruzzinosi siani. Non te ne pagano perché dicono che probabilmente dipende da lì, dipende. Così ti dico, non te ne pagano. Invece se c'è un gruppo, un rione che ha bruciato della roba, da allora magari la pagano. A chi? Tu non ci aggiungi tutti, no? Ho capito, la volta che ci ha bruciato tutti gli apparecchi, caro frigorifero, che cazzo vi ha fatto danno, non vedi niente, vi ha fatto danno, e forse hanno pagato per quello, invece se succedeva solo a me non me ne pagavano, una baita che bastardi. Così è, secondo loro è così, comandano loro, fanno loro, cosa volete dire, magari se voleva avere pagato. Pazienza, adatto. Ne abbiamo comprato un altro, non c'è problema. Sì, infatti. Ma da noi mancava spesso, perché mettevano i trasformatori che erano sottodimensionati. Praticamente ogni tanto se ne bruciava uno di chi dà il filmatore in cabina. Ed era macello. Io se mancava la luce spegnevo tutto per sicurezza. Almeno le apparecchiature erano tutte spente e non poteva farmi danno. Io ne avevo due attaccate, ne avevo uno da 30 e uno da 40, che stavo usando quello da 30, lo stavo usando in un'altra cosa, stavo usando. Tutti e due ho fatto. Sì. Vabbè, uno quello da 30 e quelli di switch che costano 13 euro dai cinesi, quello lì non è che mi interessa utilizzare, un altro gli ha ben interessato. Infatti adesso cerco di mettere a posto quello lì, quello da 40, se non ci riesco me ne prendo un altro da 40 e me lo tengo di scorta. Infatti, ma sono meglio quelli a trasformatore, io non mi fido assai di chi switching, io raggio i noghi, però non è di chi di cinesi. questo qui è da 30 ampere, però è di quelli della Proxel, non è di cinesi, va gli strumenti, buru, è regolabile, capito? Non è di non mi fida assai di questi cinesi, no? Diciamo che prendi poco, però ci sono che durano un bel, se ti riesce buono, e durano, ma la maggior parte quelli lì qua sono tanto per alimentare così. No, questo ho preso a 50 ampere in modo che posso collegare pure l'altra roba. Giulio è sparito. Giulio, un attimo che sono al telefono, fra. Ehi, va bene Natale. C'è nessuno sul 10? C'è qualcuno sul 10? Mi serve l'appoggio del... Avanti, c'è che sta provando, avanti, cosa ti fa male? E beh, non parli? Ah, io sono caro caro. Chi è? Sì che mi salvi, che mi ricambi nero. E cosa posso fare? Butto il debito della fine. Ci butto a lui che sta parlando. Un Lucani mi dà consiglio. Aspetta, ah, mi senti adesso? Però purtroppo non amplifica questo qui, boh, non lo so, oggi devo fare quella modifica là. E ancora avere il televisore accio, vedi? Vieni qua, però c'era la modifica qui e gliel'avevo tolta, ed è normale adesso, magari amplifica di meno. E allora lo davo così. E cos'è, già finito di lavorare, hai anche? Cappa. Nessuno potrà mai dubitare. Cosa? Ah, quel decoder me l'ho venduto. Ma io non me ne intendo. Ho perso lo strumento, non so dove l'ho messo, sarà in campagna, boh. C'avevo lo strumento pure per quello che suona e si illumina. E non ce l'ho più, boh. Se no avrei tentato qualcosa. E 30 euro ci ho rimesso. Certo, non glielo potevo vendere al prezzo che l'ho pagato io. L'antenna ce l'ho, ma me la voglio vendere anche quella. Se trovo a venderla, me la vendo. Cosa mi ne voto? È che questo televisore c'ha l'attacco per il satellite, quindi ce l'avrà dentro anche il ricevitore, così è. È una Smart TV questa. C'ha anche l'attacco per attaccare quella satellitare, l'antenna. Non lo so, came non ce n'è, bisognerebbe comprarla. Questo si chiama iSense, è una sottomarca della Philips. Ho capito. Cavolo, che buono. Oggi se non hai la came TV usata non fai nulla. Non ho provato, perché già qua il segnale c'è l'amplificatore sull'antenna, perché arriva debole qua, ci deve essere qualche malasorte che impedisce al segnale di passare e ci vuole l'amplificatore per vedere, se no non vedi nulla, perché io tolgo l'alimentazione all'alimentatore e qua e sparisce il segnale. Ah, così. Non lo sapevo anche. E infatti. E ho capito. E ho provato una di quelle così, però non arriva il segnale qua. Bisognerebbe trovarne una amplificata, vedere se prende il segnale. Se arriva il segnale sempre. E proverò a buscarmela una di quelle. Perché questa che ho io non è amplificata e quindi non piglia. Ecco! la cosa che prende la plastica. A me me l'ha regalata a Franco. Quale? Quella non amplificata, ma vuole amplificata, sta dicendo lui. Ah. Buona giornata a tutti. Doppio rum, avanti. Oh, sto finendo di fare fisioterapia. Dopo 4 mesi mi hanno mandato il fisioterapista a casa. E vabbè, ci stavo pensando a Taiso. Oh, guarda lì. Ho chiuso dentro in cucina a Taiso, ma poi sono entrato perché ho dovuto fare le stampelle, perché mi volevo avere camminando con le stampelle prima e poi camminando normale. Praticamente Tyson è uscito fuori, gli ho detto il cane, è uscito il cane, ho detto non ti preoccupare, guarda, ti accarezza e non ti fa niente, l'ha accarezzato e il cane era tutto scodinzolato, insomma, dice, oh, come fa quando ti fa le feste, no? Poi si è provato a alzare la mano per accarezzarlo, a domani si mangia la fisioterapista, così è. E gli ha detto le mani a me mi servono, capo, poi che era cagato, si aveva la faccia. Ha detto scusa, no, è interessante che non mi abbia moscicato perché aveva le mani serve. Non fanno, cazzo Natale, non fanno, fuia. Lui non lo doveva toccare, gli stava facendo le feste, basta, era così, e non doveva mettere la mano sulla testa. Come è andata a mettere la mano? Sì, non vi rubi due, ma non male che non sono riuscito a tirarlo, se no l'ho moscicato. Dai, sono le palle molto, perché sennò si muccica. A me veniva a pigliarmi più all'ascensore i sugani, però se uno non lo conosci, non lo devi educare. È così, è fatto così, ha quel carattere, non c'è verso, non c'è verso a farlo cambiare, non ti devi fidare. No, perché è così quel caso. No, non lo devi disturbare molto, perché tu quando lo tocchi lo vedi che è bello in effetti. Cazzo, il mio ringhia anche a mia moglie, quando lo disturba, che è coricato o cosa, la ringhia. Allora, praticamente il cane quando tu gli metti la mano in testa la vede come sottomissione, è per quello che ti morde. Solo al padrone si fa fare qualche cosa, lo sopporta, non gli fa nulla, ma si dimena, no, quando tu vai a accarezzare la testa si allontana, gli piace essere accarezzato in pancia, sotto il muso, eccetera, se no in testa non gli piace. E purtroppo è così, già cosa vuoi fare? Che pittina. Il mio riposo di induce di più e non mi fa nulla. Però mia moglie quando lo disturba che lui è coricato, ecco, lo ringhia, a Videla giuringa, ti ringhia curto quando lo disturba. Ecco. Può far anche a me Tyson, ma a nessuno piace essere disturbato quando sta dormendo. Io sono rompiballe, gli tocco la coda e mi fa. Però a nessuno piace essere disturbato, se a te ti disturbano quando stai dormendo ti piace, no? E così il cane invece di parlare di blasfematica, quando riscendi, ti ringhia. Vero? Riserva, Antonio Riserva, avanti, Riserva Riccadone. Beh, lo so, tu c'hai quella fobia dalla volta che ti ha assalito quel cane. bravo, ma che tale sei bravo, però è come tirato a capo, se non gli piace la persona, e dopo sente l'odore del gatto, guai, la volta che ti azzalla. Allora si è rovinato, perché Tyson ti fa nuovo, se sente l'odore del gatto. A me viene a pigliarmi pure all'ascensore, Tyson, capito? Perché lo sa che io sono invalido e lui viene, mi prende, mi piglia per mano. Sei girato. Come li fai? Così subito al bersaglio lì. Ho detto che Tyson, quando li fai, gli dici, subito al bersaglio lì. Per forza, perché mi ha sovracalpestato Gianni, come al solito. Tyson, coraggio, chi su cucciuccio, dov'è Tyson? Ecco caldo, è andata la coperta. Ho messo la copertina e si è coricato, quando è venuto quello lì non ha tirato tutto quanto. adesso è rimasto tutto lambaradaci cicocco, non devono sapere che cosa faccio a casa. Ho tirato tutto, la roba che c'era fuori, tutto gatto, tutto liberato. Adesso avere lunedì, mercoledì e venerdì, oggi è mercoledì, no. Eia. Mi pare che siano 20 sedute, però poi devo fare un'altra impegnativa dalla dottoressa. Quando lui mi avvisa io faccio la impegnativa, mi fa le altre, devo fare una ventina di sedute. Ma sono esercizi abbastanza facili, lo sai perché? Perché io avevo già fatto gli esercizi, la gamba me la sono ammorbidita bene, non è tetta come era prima. Prima era una gamba di legno, non riuscivo a muoverla, non c'avevo equilibrio. Adesso mi sta facendo gli esercizi per acquistare più equilibrio, che poi ce l'ho già, però vabbè, non fa mai male, dai. Io non la metto perché non è male, ma perché tu devi dare da mangiare a tua figlia, devi dare da mangiare a tua moglie, quindi è giusto che lo faccia, ma io non li mangio, il primo non ne mangio, mi mangerò un quintale di secondo, ma il primo non li mangio. Azzardo! E già è buona la pasta ricotta, ti riempie, ma già è buona. Azzardo! 21. Azzardo! Azzardo! Un angelo! Azzardo! Ah, mi siete azzardo! Niente, non è arrivato il display. Ah, ho capito. Ma se GLS? No, mandalo a me allora, dai, caso che dici di portare il diagocino 19. Dai, ci sentiamo tramite WhatsApp. A casa mia lo fai vedere, se tu non ci sei domani, lo fai mandare direttamente a casa. Va bene, dai. Beh, chi è che c'è? Gianni, tu ci sei? Gianni, poi chi c'è? Riccardino, poi Natalino. È finito? Io sono andato a sistemare un'antenna, dai, ho andato alla TV, praticamente era girata, un casino, mamma mia, non riuscivo neanche a uscire dalla botola, perché è un bel pesante il coperchio che copre lì. Comunque l'ho sistemata, dai. Meglio così, cos'è? Te lo attengo. No, a lamiera. Ah, il tetto. Sì, a lamierino già, a lamierino. Ma no, non ho mai visto la meglio zitti, ma com'è, il piatto? No, come vuole te, com'è? Poi un lamierino, come ci metti bene ci schiaccia. Ah, cappa. E non si scivola lì? Si scivola, basta rimanere dove deve rimanere, non ti risporgere più di quant'altro, là. No? Io ero praticamente dove metti le antenne, nella griglietta, un trabugiama. E si è solo girata e basta, dai. Dal vento, gliel'ho bloccata un po', però vogliono nuove, perché sono mezzo pratiche. La nostra c'ha 15 anni, quella che ho fatto cambiare io, che se ancora andavi la fraccata. Le fraccate sono buone già, le paghi, cazzo, cioè un attimo, le prendete voi. 140 euro di antenna come ho pagato. Natalino? Uia. Cosa mangiamo oggi a pranzo? Sì, magnate di giriddu, minestra lentizza e tegrai da salvizza. Uia, allora siamo di concerto stasera. Cos'è? Di concerto. Concerto accanto e tu sono il trombone. Angelo. Attenzione, Riccardino. Chiamando Giannangelo. Ciao Riccardo, chiamami al telefono un attimino che ti devo dire cosa. Aspetta che vado a prenderlo dentro e mi chiami. Riccardino. C'è rimasto qualcuno qua? Ci sono io. Ah, è vero che sei in Germania? Io invece non ho mangiato nulla ancora, ma adesso basta che lo metta a scaldare e c'è tutto pronto. Piccanti. Ma è vero lui? Luca Popò, ma gli hanno trovato tutta la droga nascosta. Ha detto i soldi, hai visto? 15 milioni di euro in contanti. Perché lui è spacciatore. No, ha detto al muro li aveva nascosti. E Riccardino che fine ha fatto? Io sono spacciatore e tu la tiri col naso, ecco. Riccardino. No, c'è, sta facendo una telefonata, gli ho dato una dritta io. Ah, cazzo. Cos'è, non parli perché hai detto che te la tiri col naso, non parli, Ti ho sgamato. Mimi, quel Gianni doppio russela, due volte, perché lui è doppio, capito? In tutte e due le narici se la sniffa. Ah, ecco perché dorme così tanto, capito adesso? Perché sei drogato! E Natalino è quello, è il più grosso che c'è. Comunque quella è un'organizzazione tipo Drang e da roba del genere di Luca. È un'organizzazione quella che sta a fare un muretto per nascondere i soldi, mica vi divulga. Ma 15 milioni di euro, cioè non stiamo parlando di caramelle, ma sai anche di Nassau, già, mamma mia. Magari li hanno accumulati e poi li hanno nascosti tutti insieme, capito? Cavolo, ma via. 15 milioni di euro sono un pacco, li in contanti. Cioè, basta te da 500 euro. Vabbè, tranquillo, c'è 50 durissimo, di me ne affettanti, non ti preoccupare. Che c'è che anche l'occhio di guardi? Ma, salato, oggi a pranzo pasta ricotta. Anche tu? No, tutti gli altri pasta ricotta c'è di meglio, anche gli altri non riservo. Minestre l'intisa e tegrai da Savvisa, a comandicato voi. Io avete di pollo asciugo piccanti, e poi un pomodoro con un po' di maionese, mi basta così a me, e due frutta. E tu ora c'è a pranzo già? Gianni, ora c'è a pranzo? Catta, bubu. Oggi pasta ricotta fresca, buona ridda, le muove andemmo, boh. Ma qui sono pentito. Guarda un po'. Questa qua c'è buona, no, assaggiata. Ho già fatto già l'impasto, là. Cioè quella con un po' di acqua. Ammorbidita un po'. Qua ci butta la pasta. È buona, è buona. Poi se aspetti un po' che si asciuga va di fifo. Ci metta in mato diventa. Avvino mia. Ah, comunque sono andato tanto per quell'antenna là che ti avevo detto, là. Era girata quella del. Quella di su, dai, quella del. UHF. L'ho sistemata per bene, però voglio cambiate. Ragazzi, giù 20 euro. E infatti stavo stringendo, ma è tutta arrugginite. E sai che uno si è anche spezzato il coso, il bullone. Abbiamo messo delle cugne, dai, per non girarsi. Non la vedi, mamma? No? Bene, bene, e anche qua. Oggi aglio io la bottarga. E l'ho mangiata l'altro giorno, tanto buona, che a me piace, ricotta fresca, l'ho presa a Piazza dei Segni dalla cooperativa. Va bene. Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno. Oh, mi state ascoltando bene? Sì, sto col barracchino. Anche tu, Luca, lì, va bene la radio, è troppo alta, se no poi entra Roberto, me la vado a abbassare, bene va. Luca, lì, io già le balle è andato. Già stai uscendo bene, già stai uscendo bene. Carissimo. Poi Natali, buongiorno, vabbè, il baracchino ogni tanto bisogna chiedere qualche controllo, non si sa mai, questo è il Polmar, quello base, 7000, con il con l'MB più 5, l'altro ce l'ho col Tane più 3, già va bene. Ehi, 10 volte sta andando la grande, la radio bella, bella pimpante, pimpante non sia forte, davvero, se no poi tra Roberto me la fate abbassare, va bene a tu. Troppo alta è Natali, tu che sei vicino. Ah, io ti sento benissimo, lascia stare così. Basta Natalino, ho detto lascia così, lasciamo così. Se entra Roberto mi dice abbassa, dico no Natalino, mai ti lasciala così. E al buon Cassappi gli allacciappi io, tu. Per carità, questo Roberto, uia, uia. No, ogni volta l'interno mi fate abbassare la radio. Ecco, la stai usando, è abbassa, è troppo forte, aspetta che ti misuro. Misurami la misura di avanza. No, magari non so davvero, da che sono troppo vicino. Sì, vabbè, ma non è forte, no? Dai, vabbè, il microfono ce l'ho a 4, normale. Forse la mia voce, in parte sia buona come cosa, come timbre, camminando. E allora ve ne fai i buchi. E neanche te lo stavo per dire cosa stavi usando, ma giusto perché stai andando bene, non per curiosità, va bene. E ci occorre maestro a fare modifiche. Io non ho mai avuto radio modificata da lui, però so che è bravo. E allora va bene. Allora la grande, ottimo per la truppa. E se vedi? Stazionario non ce n'è. Uno rapporto a uno, quasi zero, va bene. Va bene signore, adesso sono entrato a salutarvi, augurarvi buon pranzo, quindi buon pranzo a tutti, statevi bene e ci sentiamo quando ne ho voglia. Vado a pappare, ciao. ciao Cla, ciao. Anche io mi faccio QRT salutando tutti, dai che vado a riposare un po'. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao, ciao Natali, ciao Antonio e ciao anche a Luca quando rientra, ciao a tutti. E ciao, buon pranzo anche a voi. Io sto cucinando la pasta, dai, sono ancora qua. A stasera. Ciao Luca! No, io sono ancora qua già, dai, sono qua, mi ha computer un attimo. Ma WhatsApp non è aperto? WhatsApp non l'ho aperto perché mi sta aggiornando il software del telefono. E poi apro che ti ho mandato una cosa. Vi ho mandato il buongiorno su Facebook a tutti e due, non l'avete visto? Ma se guardi ti ho risposto, eh. Allora ci aspetto, non c'entro mai, sono entrato perché mi davano 40 notifiche, sono andato a fare un po' di pulizia e basta, e poi ho visto che c'erano i tuoi Gianni, allora ho mandato i saluti, dai, niente di che, ma l'ho già aspetto. Ho detto Luca, è troppo alta la modulazione col polmar, va bene? Un po' altina, ma già va bene, dai. Ma no, cazzo, era basso, se no la buia tra Roberto me la fate abbasciare. Lasciala, va bene, non ti preoccupare, se. E l'ho messo, ce l'avevo a 5, l'ho messo a 4, così va meglio. Sì, lascialo così, frega. Va bene, dai, anche da te Gianni, va bene. Ehi, ancora, ciao. Sono aperto Facebook stamattina perché ho fatto fisioterapia, che si sono decisi adesso di mandarmi il fisioterapista dopo 4 mesi. Dai, almeno ti addrizza un po', te l'hai fatto massaggiare Pirolino? Era un maschio, per poco non se lo massaggia a Tyson, faccio bene si lo magna. Tyson se lo conosce, no, me la mai mi conosce, gioca, ma se lo conosci, ti morsi, che è così Filippo? Ce l'hanno di vizio questi cani, se non conoscono, ti attaccano, se conoscono, guarda, stanno sempre sopra. E lui che è andato a toccarlo, è andato a accarezzarlo, se non lo dico, cazzo, musichetto. Dice, no, le mani mi servono, io sono fisioterapista, se no, ui. Vabbè, bisogna stare attenti ai cani, cari, bisogna sempre dare del lei, quando non è il tuo, bisogna sempre dare del lei. Va bene, dai, allora questa radiolina sta ancora funzionando, è un po' che non l'accendevo. Va bene, d'accordo, dai, vado a pranzo, buon pranzo a tutti, se coincide alle prossime trasmissioni. Ciao! Bastardo già. Ah, c'è un bastardo già. Cosa lo vai? A Gianni. E te bada. C'è un bastardo dentro. Ti ha mandato roba su cose, su WhatsApp. Vabbè, sono cose belle. Va bene ragazzi, vi saluto di nuovo, buon pranzo a tutti, ciao. Ciao, buon pranzo, ciao. Io adesso fra poco mi alzo, intanto c'è tutto pronto. Devo fare il pranzo solo alla Tyson e basta. Ne ho comprato fegatini di pollo ieri. Tu non hai mangiato fegatini di pollo? Io molto spesso perché glieli stavo mandando due o tre volte alla settimana e alla fine gli ha fatto diarrea, allora glieli do poche volte, capito? Lui è amante delle sue crocchette, adesso glielo cambiate di nuovo perché un po' glielo al pollo, un po' glielo al manzo, un po' con l'agnello, le verdure, capito? Lui è amante delle sue crocchette, le metto un pochino d'acqua e due vasi grogu, però hai detto bene, adesso magari fine settimana le do fegatini di pollo, però io assieme ai fegatini di pollo le faccio un pugnettino di o di riso o di gnocchettini, quelli piccoli, capito? Non glielo do da solo. Io gli do la pasta senza sale, i fegatini di pollo bonitti e poi gli metto due pugni di mangime di quello che sei tu, di quello crocchette. E lui mangia tutto, spazza tutto quando li mette fegatini, non gli fanno nulla a lui, comunque io alterno, gli do fegatini, gli do stomaci qualche volta, fegatini, gli do come si dice, petti di pollo, insomma alterno, dai, non gli do sempre la stessa cosa. L'altro giorno gli ho preso una scatoletta, là, perché ho finito tardi di fare la spesa, gli ho preso una scatoletta di pollo buone, non ha toccato, non ha stato tutto il mangiato, non ha mangiato tutta la lì, ma non ha mangiato. No, ma anche Filippo non le piacciono quelle scatolette, non ci va matto, preferisce più la pasta, lui, bollita, senza sale, senza nulla, le metto un cucchiaino di formaggio, capito, giusto per avere appena di gusto, un cucchiaino di olio, gliela giro, è tranquillo, però oramai è abituato a mangiare crocchette, mangia sempre crocchette. Però la carne è chiaro che lo rifiuta, quando gli allora che io avevo il pollo, il pollo, queste cose così. Vabbè, ok, dai, vi saluto, un abbraccio a tutti, se coincide, alle prossime trasmissioni. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, bra. Niente, la giovane non è come, ma si deve bastare, si deve fare, maniaco. Ah, chi c'è? Ho mandato a mio amico quella foto che ho mandato a te, no? Ma si deve bastardo, io si deve fare, maniaco, lui ma si deve facciare. Sì, 9,80 c'ho, sì. Non so, devo controllare, l'italiano non lo so perché è americano l'apparecchio. Devo controllare la scatola, tu se ce l'ho, non lo so, non me lo ricordo. Cosa ti serviva sapere? Devo controllare, dai, se mi dai il tempo controllo e ti faccio sapere. Io ho il 980 che sarebbe la versione nuova dell'S9, perché ricordi che l'S9 c'aveva quel difetto che poi hanno scoperto che dopo un bel po' di tempo ti si guastava il frequenzimetro, camminava da solo. Invece il 980 le avevano risolto quel difetto. C'è scritto 980 o S9? No, c'è scritto 980. S980. Eia. Come 980? E vabbè, dai. Già andiamo bene, va. E niente, controllo. C'ho la bandiera americana, quella che si mette davanti al coso, nel cruscotto bar, la parte di davanti, no? Poi togli le manopole e c'è la bandiera americana adesiva che si attacca. Esatto. A me non piace perché roba da Ferragosto. No, è adesiva, tu ritorni la carta e la metti sotto, capito? Tornato. Ti piace te la roba. Vedi sempre quel difetto del frequenzimetro, cioè o si spengono, a Giovanni li si erano spenti gli ultimi due. Radio Killer lo sostituisce, il coso, il frequenzimetro. Dice che gli americani praticamente non mandano i pezzi, cazzo, l'ha mandato un amico che aveva quel difetto e gli ha detto che gli americani non mandavano i pezzi d'Italia perché non vogliono che li aggiustino gli italiani, capito? Comunque mi ha detto che Radio Killer li aggiusta, e è buono farglielo sapere a Giuseppe. Ah, tornato. Eia, che ricammina. No, lui ricammina, ricambia anche la frequenza. KK. Vabbè dai, già guardo anche se lo trovo. Se lo trovo ti fai magari le fotocopie e poi me lo torno. Vabbè, Riccardi. Ho fatto. Ferdinando. Sta parlando Babbo, che per il pagamento Babbo ha un dolore alla gamba. Ah. Che ci è rimasto? Mi sono allontanato. L'hai visto l'apparecchio però? Sì, ho cercato il gruppo e l'ho trovato, molto bello. Ma tu ti devi fidare di Gianni, se ti dice Gianni le cose non devi avere problemi, anche se non lo vedi pida gli occhi chiusi. Vabbè, comunque, fatta è. Sì, è fatta. A me datatela la radio, Ricca. Chi ti deve dare la radio? Te la sta riparando? Sì, me l'ha data già. No, la tua? Mia no, la mia la sta ancora ricontrollando e poi fra qualche giorno me la dà. Ancora c'è qualcosa di grave? Ho un problema nel splatter, la deve riallineare un attimo. Vabbè, cosa ti hai preso? Un altro vintage? Sì, un altro vintage, una stazione base. Vabbè, base, sono i vintage, io già prendo i veicolari, a me non piacciono i veicolari. Va bene, va bene. Bravo, bravo. Fai. Vedrai diventi il più grande collezionista della Sardegna. Esagerare, comunque adesso ti mando la foto di com'è. Di questa ultima che hai comprato? Sì, dell'ultima che ho comprato. Ehi, ehi, mandamela. Se poi l'ha vista Gianni, lui amante dei vintage, quindi. Se ti ha detto di prenderla, vuol dire che è bella. Sì, mi dici cosa ne pensi? Sì, Gianni ha dei bei gusti. Abbiamo gusti belli noi, abbiamo gusti belli, va bene. E anch'io sto modulando col vintage, ce lo facciamo andare un pochino, se no è un casino. Sto andando col 7000 della Polmar. Mandami la foto, dai, che è pronto il pranzo. Ciao, ci sentiamo, Ricca. Ciao nuovamente anche a Gianni, dai. Se non vedi quell'apparecchio, sembra uscendo dalla fabbrica. Non l'ho preso io perché c'ha 16 canali solo ed esce con 2 watt perché è stato fatto per la Germania, quel modello lì. però c'è uguale con 23 canali e con 5 watt per l'Italia, con lo stesso apparecchio. Questo qui è 16 canali e 2 watt, che poi 2 watt si possono sapere alzare a 5, non è quello il problema, è che c'ha pochi canali. Ma se tu vedi questo apparecchio, c'è un microfono cromato, vai su amico CB anni 70-80 e lo vedi, Zodiac. Zodiac? Vabbè, sono della categoria come questo, Polmar, Zodiac, Inuit, sono quelli. Va bene, se è bello. L'importante è che funzioni bene, dai, questo non è esteticamente bellissimo, comunque va bene, è nuovo, è bello, mi piace, so. Però funziona molto, molto bene, c'è una ricezione favolosa. Poi l'abbinamento così con questo microfono va bene, quindi si può usare, dai, si può usare. Va bene, mandami la foto, Ricca, che così te lo commento, vediamo se mi piace, dai. Vi saluto, che è pronto il pranzo, ciao. Ciao, buon pranzo a tutti, da anche sto andando. Ti faccio sapere anche, ciao. Ok, ciao Claudio, ciao Gianni, comunque resto in ascolto. Mi ti sto mandando la foto, Cla. Comunque, lo sai che ti ho sentito sul trio? Sono riuscito ad arrivare fino alla 27 girando, non vi avevo mai sentito. Sentivo soprattutto a te, da quanto sei forte, e anche a Gianni. Ah, l'hai messo in AM a 27? Sì, è un bel ricevitore, te l'ho detto. Io l'ho avuto tempo fa e poi l'ho dato per comprare altro, te l'ho spiegato. Già va bene, va bene. Va bene, ciao a tutti, resto in ascolto qui. Buona carica quando la fate. Ciao Riccardo, altrettanto, vai. Comunque avete già fatto l'affare oppure sospeso? Già fatto l'affare, abbiamo. Brava gava. Visto gli Gianni, ti ha fatto comprare una cosa bella. Mi ha detto che funziona tutto, l'orologio, tutto perfetto, funziona, l'ha provato e funziona tutto. Va bene, sì, grazie Gianni. Cava, ciao, quello non ce l'ho visto. Va, vedi. Quindi questo è uguale al mio, è uguale a quello che avevo io prima di questo e l'ho venduto a un radioamatore. Ok, però il mio è da 23 canali, ci resta così. È lo stesso colore, il microfono suo è originale così, ed è lo stesso